Radio 24 Reportage. Lampedusa, la rabbia dell'isola candidata al Nobel, di Raffaella Calandra. Prima all'hangar, con la distesa infinita di bare. Poi sul molo Favarolo, dove per giorni sono stati portati i corpi estratti dal mare, quindi nel centro di accoglienza al collasso, approdo dei sopravvissuti. Attraversa tutta Lampedusa, la Via Crucis della più grave sciagura dell'immigrazione, e lascia su quest'isola, ponte del Mediterraneo, un dolore che diventa rabbia, perché ancora una volta, urla uno striscione, non hai sentito il mio grido. Il grido di Lampedusa è quello di uno scoglio in mezzo al mare che da anni piange morti senza nome e da anni raccoglie braccia in mezzo alle onde. Meglio di Lampedusa e dei lampedusani nessuno sa quanto dolore e quanta impotenza e rabbia si prova di fronte alla morte ingiusta come questa e alle cose che non cambiano. Per giorni, con la fascia addosso, il sindaco Giusy Nicolini ha accompagnato ministri e presidenti nelle tappe del dolore e ora vuole crederci davvero alle promesse di cambiamenti e di interventi fatte davanti ai morti e di fronte ad una comunità sofferente ed arrabbiata. Vorremmo che l'Europa si sedesse al tavolo e ogni paese facesse una quota d'accoglienza, dopodiché chiediamo per Lampedusa i diritti che mai ci hanno dato. Qui i migranti devono restare 48 ore massimo, invece il centro è da 20 anni che è in queste condizioni e loro si accorgono solo adesso che questo è il problema, dopo 300 morti, e poi si prende il premio Nobel per la pace. No, non ci stiamo. Signori, nessun immigrato vuole restare in Italia. Per gli accordi di Dublino sono costretti a rimanere in Italia. Ma nessuno vuole rimanere in Italia. Allora vanno riviste tutte le leggi. Sono anni che si sono denunce, loro sanno benissimo quello che c'è e che fanno finta di non sapere. Poi vengono qua, si vengono a prendere le belle parole, le belle faremo, diremo, saremo. È un dolore covato per anni, qui in solitudine, in mezzo al mare, tra la Sicilia e l'Africa, quello rinfacciato ai vertici del governo e della Commissione europea nel giorno della loro visita, perché di verbi declinati al futuro e di parole affidate al vento, la gente di Lampedusa non ne vuole più sentire, dopo anni di un'emergenza che non può più essere chiamata tale, quando le reti continuano a riempirsi di corpi e le cime vengono usate per strappare uomini, donne e bambini alle onde. C'era in mare una marea di persone, più di 100 persone. Solo che noi ne abbiamo recuperati 18 vive e 2 morti. Poi a rimanenza alzavano le mani e andavano giù per le nostre mani. Quello che è successo adesso è una cosa, forse non vedere è una migliore cosa, insomma. Voi cercavate di dare soccorso a loro ma vi scappavano di mano? Certo, perché erano scivolosi, perché la barchetta d'affondo fuoriesce da fuori la naffita, erano tutti oliosi, naffita, perché una barca come quella lì, portare 450 persone, sicuramente che non ce la fa. O stanno come sardine, non lo so com'è. Domenico Colapinto è uno dei pescatori di Lampedusa che la mattina del naufragio era in mare e subito è corso verso il barcone. Domenico la vita l'ha conosciuta anche nei suoi dolori più acuti, ma vorrebbe non aver mai visto quelle teste inabissarsi, quelle mani tendersi, quegli spasmi diffondersi nel vento, perché poi tutta questa morte ti sedimenta dentro e diventa un tarlo che scava fin negli strati più intimi e fa traballare tutto. Ammette anche un uomo di fede come Don Stefano Anastasi, che si prepara a lasciare l'isola dopo 6 anni complessi e dopo aver detto ai sopravvissuti del naufragio che il loro dolore è il nostro dolore. Sono anni in cui ho visto in faccia il dolore, la sofferenza, ahimè tante volte anche la morte. È come se siamo testimoni dinanzi ad una guerra muta. Una guerra che però in qualche modo arriva sulle nostre coste, arriva qui a Lampedusa, porta tutti quanti voi ad abbracciare in un unico dolore anche questi morti che restano senza nome. Lei, quando ha benedetto le bare, ha detto i vostri figli sono i nostri figli, il vostro dolore. Pure il vostro dolore, le vostre lacrime sono le nostre lacrime, o viceversa, perché siamo i testimoni primi di tutto questo. Cioè, non è la prima volta, ahimè, che avviene un naufragio. Questo dolore ci è entrato nella carne, sono dei corpi senza vita, che abbiamo toccato, che abbiamo pianto. C'è compassione, c'è indignazione nello stesso tempo. Io quando ho visto quello striscione nella fiaccolata che è stata fatta in ricordo delle vittime, anche questa volta non hai sentito il mio grido. Le posso dire che cosa ho pensato, ma una morte di questo tipo fa vacillare anche la fede? Sicuramente rimette tutto in discussione, però siamo certi che hanno vissuto gli ultimi momenti della loro vita in atteggiamento di affidamento totale a Dio. Il capitano ha dato fuoco alla coperta. Anche dei miei amici sono rimasti intrappolati nella barca, laggiù, in mare. Parla con la semplicità di chi con la morte è abituato a convivere, a Wek, nonostante la sua giovanissima età. 18 anni, quelli dichiarati. Una collanina appesa al collo e una felpa data dal centro di accoglienza. Quando è stato portato sulla terraferma, per prima cosa ha chiesto e ottenuto di chiamare i genitori rimasti in Eritrea per dire che ero vivo e che ce l'avevo fatta. Anche per lui l'Italia è in realtà solo un transito verso l'Inghilterra, nel suo caso, ci racconta, dove vive la sorella. Per altri, partiti insieme a lui da Misurata, la destinazione è la Svezia o la Germania. This normal people do this business, danger business. Conoscono pochissime parole in italiano, gli eritrei sopravvissuti al naufragio del 3 ottobre, come gli altri siriani che ora affollano il centro di accoglienza di Lampedusa. Sono intere famiglie che, spinte dalla guerra, prendono la via del mare. E all'ora di cena, varcati i cancelli, ritrovi padre, madre e schiere di bimbi di ogni età mangiare sotto agli alberi, seduti sugli scalini o sotto improvvisate tende. E ci sono pure dei neonati in questa folla, che hanno esigenze particolari, ci ricorda Barbara Molinario dell'Alto Commissariato per i Rifugiati. Le condizioni di accoglienza non sono adeguate, non solo le persone non riescono a trovare un letto, ma non riescono neanche a ripararsi, per cui sono all'aperto sotto agli alberi con dei materassi. E questo vale purtroppo anche per i superstiti del naufragio. Come la gran parte delle persone nel centro hanno trovato una sistemazione di fortuna, credo che la cosa più difficile per le persone che arrivano qui è il fatto di non sapere quando verranno trasferite, perché è un po' un limbo, no? Vedo che ci sono anche dei neonati. Ci sono dei neonati, ci sono moltissimi bambini piccoli. A volte nascono sulle barche durante la traversata. Una mamma e il suo bimbo, ancora uniti dal cordone ombelicale, li hanno trovati così, a 50 metri di profondità, nel barcone, e insieme sono stati adagiati in una stessa bara all'Ankara. Spinto dal vento di scirocco, il lamento dei sopravvissuti si diffonde nell'intero centro di accoglienza. E lo riconosci nonostante il vociare della folla in fila per prendere un pasto alla mensa e nonostante le voci dei bambini più grandi che giocano a pallone, nonostante la confusione dell'affollamento di un centro al collasso, il pianto delle donne eritree cala sulle 800 persone che si trovano tuttora in questo villaggio blindato, in grado di accoglierne però massimo 250 da 2 anni, da quando cioè un incendio ha messo fuori uso 2 padiglioni. E allora pure un vecchio camion di gelati può diventare un riparo se l'alternativa è restare all'aperto. Luccicano i riflessi dorati dei teli termici che hanno avvolto i naufraghi al momento dello sbarco e che ora diventano improvvisate tende tra file di panni stesi e giaciglie di fortuna. Ma le piogge sono arrivate pure su Lampedusa e di notte gli operatori sono corsi ad aprire ogni cosa, auto, pulmini, corridoi, tutto pur di non lasciare qualcuno sotto l'acqua. Perché noi qua facciamo il massimo, rivendica con orgoglio Federico Mirraiotta, il direttore di questo centro che per tutti è una vergogna. È chiaro che la situazione di sovrannumero in questo momento deve essere ridimensionata. Vi sentite sotto accusa? Sicuramente ci sono delle difficoltà. E nessuno le vuole nascondere. È ben diverso, deve essere a mio avviso, dato la giusta considerazione al lavoro di chi è all'interno del centro accoglienza. Noi abbiamo lavorato in questi giorni in cui ci sono state delle piogge notturne per dare la possibilità a tutti comunque di non rimanere sotto l'acqua. Cioè non ci siamo dinanzi ad una situazione di sovrannumero alzato le braccia dicendo non sappiamo cosa fare. I lavori al centro dovrebbero partire presto e i rinforzi dovrebbero arrivare per pattugliare questo specchio di mare ponte tra Europa e Africa. L'hanno promesso davanti a 300 morti i vertici del governo e della Commissione europea. E stavolta Lampedusa ci crede davvero, perché sarebbe davvero penoso, nota la combattiva sindaca Giuse Nicolini, se nulla cambiasse anche stavolta. Una delegazione molto importante che è venuta qui a guardare in faccia l'orrore. Un conto è sapere che ci sono i morti, un conto è vederli. Davanti a quei morti le promesse hanno, devono avere il senso dell'impegno. Voi vi siete sentiti un po' da soli a portare sulle vostre spalle il peso di un fatto epocale come viaggi di popolazioni intere verso l'Europa, giusto? Esatto. Voglio sperare che l'Europa, ma anche il nostro paese, anche l'Italia, si accorga che noi siamo un pezzo del paese e un pezzo del continente europeo. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.